GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Minori non accompagnati, sì alla programmazione, no alle scelte demagogiche, le reazioni dalle strutture dopo le nuove norme regionali. Ryanair potenzia la base di Ronchi con un nuovo aereo fisso. Tra le rotte estive entrano Stoccolma, Praga e Lamezia Terme. La SIAE chiude l'ufficio di Udine, sciopero degli straordinari per 20 giorni negli uffici postali. Uscite in mare per monitoraggi ambientali, siglato un protocollo tra Istituto Nautico di Trieste e ARPA. Alpi e Hrovatin, 31 anni fa l'esecuzione di Mogadiscio, il ricordo dei due giornalisti uccisi. Come nacque la regione speciale in un volume di due storici, le premesse dell'istituzione del 63. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Partiamo dalle reazioni nelle strutture di accoglienza per minori non accompagnati dopo l'approvazione ieri sera in Consiglio regionale delle norme sulle nuove aperture. Abbiamo raccolto le opinioni dei responsabili della Casa dell'Immacolata, di Civiform e di Oikos. I rappresentanti delle comunità per minorenni stranieri non accompagnati accolgono in maniera differenziata la legge regionale che ha operato una stretta sulle nuove strutture, che ora possono aprire solo previo parere vincolante della regione. C'è chi guarda positivamente al ruolo di programmazione dell'amministrazione regionale, purché il dibattito non sia demagogico sul tema. La pensano così, per esempio, Vittorino Boheme, presidente della Casa dell'Immacolata di Udine, che gestisce una settantina di ragazzi senza genitori, per lo più egiziani. Sulla stessa linea di pensiero Roberto Molinaro, presidente di Civiform, che tra Cividale e Trieste ha in gestione circa 140 ragazzi. Tuttavia Molinaro si augura un ascolto delle comunità da parte della regione. Boheme, che presiede da volontario l'Immacolata, ammette che ci sono alcuni problemi di criminalità, ma la situazione è tenuta sotto controllo anche con la collaborazione delle forze di polizia. Con loro si concordano controlli a sorpresa per la ricerca di armi, talvolta spuntano qua e là coltellini, e per segnalare crimini come lo spaccio. La settimana scorsa due ragazzi sono stati arrestati proprio su indicazione della struttura. Più critico Giovanni Tonutti, presidente dell'Udinese Oikos. Secondo Tonutti, la regione già adesso con il nuovo regolamento potrebbe fare di più, ma a suo parere sono mancati i controlli. Tonutti sostiene di aver denunciato all'autorità una tratta di minorenni che avrebbe come uno dei principali centri italiani proprio Udine. Tutti negano che esista ancora una fuga verso il Friuli Venezia Giulia di minori non accompagnati, circostanza che secondo Boheme si è verificata solo un paio di anni fa e solo per alcune comunità. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. I temi dell'economia e del lavoro. A Ronchi dei Legionari, Ryanair ha annunciato che nella sua base regionale avrà un secondo aeromobile. Ha annunciato anche le nuove rotte che saranno attivate, tra le quali Stoccolma. L'estate inizia già il prossimo weekend sui cieli della regione, con il cambio dell'ora domenica prossima al via l'orario estivo con due nuove rotte Ryanair per Praga e Lamezia Terme. Dal 4 giugno ci sarà anche Stoccolma. Presentate poco fa nel palazzo della regione Friuli Venezia Giulia queste nuove rotte alla presenza di Eddie Wilson, CEO della Ryanair, con il presidente Massimiliano Fedriga e l'amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo. Ha annunciato anche un nuovo velivolo basato su Ronchi di Ryanair. Sarà il secondo e significa un nuovo investimento da 100 milioni di euro. Che cosa significa, Marco Consalvo, avere un secondo velivolo Ryanair basato qui? Significa che la partnership con Ryanair è di lungo periodo. Quando una compagnia basa un aereo vuol dire che fa una previsione di crescita non per un anno ma per diversi anni, quindi dà solidità all'investimento Ryanair, di questo siamo ovviamente contenti. La chiave del successo è l'abolizione sicuramente della tassa d'imbarco, fatta non solo per Ryanair ma per tutte le compagnie aeree. Che cosa ha significato questo? Beh, questo per le compagnie significa avere una riduzione di 6 euro e mezzo per passeggero in partenza, che potenzialmente può ridurre il costo del biglietto, quindi è apprezzata da tutte le compagnie aeree, soprattutto da Ryan perché è una low cost, quindi come dire... E vale anche per una nuova low cost, può annunciare già, vero, un altro collegamento? Ma difatti Wizz Air, che opera qui, adesso apre anche d'estate il collegamento con Bucarest e aumenta le frequenze su Tirana. Questo aumento di frequenze sarà anche per Lufthansa su Francoforte, ed entra una nuova compagnia, Transavia, che farà il collegamento su Rotterdam. Quindi il beneficio di questa abolizione, di questo superamento dell'addizionale comunale, è un beneficio per tutte le compagniere. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina sindacale sta per chiudere a Udine l'ufficio della SIAE, riorganizzazione in vista per le Poste e sciopero. Un fulmine a ciel sereno per lavoratori e sindacati, i tre esuberi annunciati sulla sede SIAE di Udine. Il taglio deciso dalla Società Italiana Autori ed Editori rientra nell'ambito del piano di riorganizzazione della rete territoriale comunicato al tavolo nazionale con CGIL, CISL, UIL e UGL. Nell'immediato, oltre a Udine, prevede la chiusura anche della sede di Catanzaro. Di recente ha chiuso anche Parma in regione. Resterebbe operativa solo Trieste con una decina di dipendenti. Per i sindacati, le ultime di una serie di chiusure in Italia che confermano la volontà dell'ente pubblico di continuare a ridimensionare pesantemente la rete territoriale. Seguendo una logica da azienda privata, si è annunciata la soppressione senza alternative di punti di ruolo dichiarati non performanti e in perdita, utilizzando anche eventuali licenziamenti individuali laddove non bastassero gli incentivi agli esodi, denunciano in una nota le segreterie nazionali dei sindacati. Un percorso di razionalizzazione dei costi del lavoro che, a guardare gli incassi della SIAE l'anno scorso aumentati del 30%, appare inspiegabile, scrivono ancora i sindacati. Il segretario provinciale della SLCCGL di Udine, Riccardo Ucheddu, come già le segreterie nazionali, si dice pronto a tutte le azioni necessarie per tutelare i dipendenti a rischio. Una nuova criticità in un settore, quello dell'editoria e delle telecomunicazioni, che anche in regione continua a perdere occupati e posti di lavoro, segnala Ucheddu. Dalle aziende grafiche alle compagnie telefoniche, al mondo dei quotidiani locali, alle Poste, nell'ultimo quinquennio il settore ha visto in media una riduzione di un quarto dei suoi addetti, aggiunge. Nelle Poste in particolare, dove da oggi è scattato lo sciopero di 20 giorni degli straordinari, la CGIL rileva un taglio irrevocabile di turni lavorativi e servizi che solo lo scorso dicembre ha riguardato una trentina di sportelli in regione. Nell'ultimo decennio un migliaio di lavoratori persi, con riflessi negativi anche sul servizio ai cittadini. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Si era finto invalido per più di 15 anni ricevendo dall'INPS oltre 55.000 euro di invalidità civile. L'uomo però è stato scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Trieste, che lo hanno denunciato per truffa ai danni dello Stato. Dal 2008 simulava, di fronte alle commissioni mediche in occasione delle diverse visite, pesanti disabilità motorie. Nelle loro indagini finanziarie, oltre ad acquisire la documentazione medica, hanno interrogato i membri delle commissioni, i condomini e gli amici. Hanno anche eseguito pedine e appostamenti. Il magistrato ha disposto il sequestro per equivalente dell'immobile di proprietà dal valore di 90.000 euro. Uno sguardo al tempo, temperature in risalita, cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, vediamo cosa dice il termometro. A Trieste 9 gradi e 5 decimi, a Gorizia 12, a Udine 11, 10 gradi e mezzo a Pordenone, nell'area montana a Tolmezzo 9 e 5 decimi, a Tarvisio 10, a Sappada 5, a Forni di Sopra 8 e mezzo, sul Piancavallo 3 e ancora in quota sullo Zoncolan 3 gradi, sull'Ussari 2 e 5 decimi, sulla costa Lignano 11 e mezzo a grado 10. E queste le previsioni per oggi pomeriggio e per la serata: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per il passaggio di qualche velatura in quota e la formazione di qualche annuvolamento sulle prealpi. Per domani cielo in genere da poco nuvoloso a variabile, le temperature minime aumenteranno leggermente, i venti resteranno deboli. Gli studenti dell'Istituto Nautico di Trieste hanno cominciato a fare uscite in mare per alcuni monitoraggi ambientali nel Golfo, un progetto in collaborazione con l'ARPA. A scuola sul mare, per conoscerlo meglio e monitorarne la qualità. È quanto hanno iniziato a fare gli studenti dell'Istituto Nautico di Trieste, uscendo nel Golfo per misurare i parametri fisici dell'acqua. Un progetto che durerà fino a ottobre, organizzato in collaborazione con l'Agenzia per la Protezione Ambientale e la Lega Navale, i cui soci forniscono alla scuola le imbarcazioni. L'idea è nata da ARPA e Regione per promuovere la cultura della sostenibilità e della tutela dell'ambiente marino tra studenti, il cui sbocco professionale sarà proprio legato al mare. Durante le uscite, i ragazzi monitoreranno i parametri fisici dell'acqua lungo una rotta prestabilita e i dati raccolti saranno confrontati con quelli dei modelli ambientali messi a punto dall'ARPA. Gli studenti censiranno inoltre gli organismi gelatinosi e i rifiuti galleggianti avvistati, registrandone le coordinate, e la presenza di mucillagini nelle acque del Golfo, raccogliendo dati che potranno servire a studiare un'eventuale correlazione proprio tra le mucillagini e particolari condizioni meteoclimatiche. Trieste, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Massimo Robioni, professore di chirurgia maxillofacciale dell'Università di Udine e direttore del Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, è stato nominato esperto del tavolo tecnico del Ministero della Salute sulle patologie neoplastiche della regione Testa, Collo. L'organismo è formato da 15 esperti e 17 rappresentanti del Ministero e di enti e di istituzioni. Accolgo la nomina con piacere e orgoglio, ha dichiarato Robioni, decisione che giunge quanto mai opportuna anche per sostenere il piano oncologico regionale che nell'ambito del Testa Collo vede l'Ateneo Friulano e ASUFC come centro hub di secondo livello. Compiti del tavolo sono programmare ed effettuare una ricognizione delle modalità di promozione della salute, di prevenzione e di trattamento dei tumori della regione Testa Collo nel territorio nazionale. Entro un anno presenterà una relazione sugli esiti. Uno studio internazionale coordinato dall'Università di Trieste e dal National Amyloidosis Center di Londra potrebbe rivoluzionare le prospettive del trattamento precoce dell'amiloidosi cardiaca, malattia del cuore rara e progressiva causata dall'accumulo anomalo di una proteina che si deposita nei tessuti cardiaci, compromettendone la struttura e la funzione. Aldo Stefano Porcari, primo autore della pubblicazione su un'importante rivista di cardiologia, spiega che le attuali linee guida europee e americane prevedono il trattamento farmacologico solo per chi ha già sviluppato scompensi cardiaci conclamati, mentre l'osservazione di pazienti a stadi precedenti suggerisce un trattamento precoce anche per gli asintomatici. Con lo sviluppo di nuove terapie mirate alla rimozione dell'amiloide, queste informazioni saranno preziose per migliorare l'efficacia delle cure, permettendo di intervenire in modo più mirato nelle prime fasi della malattia dopo l'individuazione con la diagnostica non invasiva. 31 anni fa l'uccisione in un agguato a Mogadiscio di Ilaria Alpi e Miran Krovatin. L'inviata del TG3 e il cineoperatore triestino stavano realizzando una serie di reportage sui traffici di armi e di rifiuti. Sono stati ricordati a Trieste e a Ronchi. Ilaria e Miran, 31 anni dopo l'omicidio di Mogadiscio, rimane la volontà di ricordare il loro sacrificio per la difesa del diritto ad essere informati. È stata un'esecuzione, ma a livello processuale c'è stata l'archiviazione. Non si conosceranno mai i colpevoli, pur sapendo che Ilaria Alpi e Miran Krovatin avevano scoperto qualcosa certamente di importante su di un traffico d'armi o di rifiuti. La ricerca della verità, la stessa che da sempre chiedono l'Ordine dei giornalisti, la Sostamp, Articolo 21 e la Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Krovatin, che oggi hanno deposto dei fiori al giardino di Barcola a Trieste intitolato all'operatore video. Sono stati ricordati anche a Ronchi dei Legionari, davanti alla targa che l'associazione Le Ali delle Notizie ha dedicato loro nell'ambito della passeggiata della libertà di stampa e di espressione inaugurata nel 2021. Un ricordo accompagnato dall'appello per la giustizia che le associazioni rilanciano per conoscere esecutori e mandanti dell'attentato. E un appello è stato fatto anche per il rilascio di Alberto Trentini, cooperante arrestato in Venezuela da 4 mesi senza una specifica accusa. Di lui non si sa nemmeno dove sia detenuto. Ronchi dei Legionari, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un libro da poco uscito, curato da 2 docenti di storia dell'Università di Trieste, Raul Pupo e Patrick Carlsen, ripercorre la temperie geopolitica e istituzionale che nel 63 portò alla nascita della nostra regione autonoma, un percorso del tutto particolare rispetto alle altre regioni speciali istituite 15 anni prima, nel 48. È dalla lotta di italiane e italiani contro il nazifascismo che è nata la nostra Repubblica, con le sue articolazioni territoriali che sono le regioni, alcune un po' più speciali delle altre, come il nostro Friuli Venezia Giulia, il cui iter di formazione è stato però più travagliato che altrove. A ripercorrere quella storia è il saggio Costruire una regione speciale, il Friuli Venezia Giulia, negli anni del disgelo e della distensione. Il curatore Patrick Carlsen. La specialità era interpretata dalla classe dirigente dell'epoca come uno strumento per sottolineare la vocazione internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, innanzitutto, cercando di assegnare quindi alla regione un ruolo di ponte e anche di collegamento con l'area del centro Europa, naturalmente essendo questa la sua posizione geografica, ma anche nel tentativo in qualche modo di renderla una chiave per attenuare i blocchi della guerra fredda, ok? Quindi per cercare di inserirla in un percorso di distensione. A dispetto di chi ancora oggi sogna un Friuli autonomo da Trieste o viceversa l'istituzione di un TLT entro i confini nazionali, l'ipotesi di separare la Venezia Giulia dal resto della regione non è mai stata presa seriamente in considerazione. È stato sul tavolo, sui tavoli locali, cioè diciamo che l'aspirazione all'autonomia aveva scaldato la classe politica sia in Friuli che a Trieste in varie stagioni. Però diciamo che non è stata la priorità delle classi dirigenti nazionali che hanno poi varato effettivamente l'autonomia della nostra regione. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E di guerra fredda e città contese e divise si occuperà la terza edizione del Forum Internazionale in programma da stasera a sabato a Gorizia per iniziativa dell'Università degli Studi di Udine con l'Università di Harvard. Una quarantina gli storici e analisti in arrivo da tutto il mondo per raccontare la storia delle molte città che furono divise o contese durante la guerra fredda in Europa e sul pianeta. A inaugurare il forum alle 18 sarà la lezione magistrale dello storico David Reynolds dell'Università di Cambridge su il mondo diviso della guerra fredda. Sempre a Gorizia, al Kinemax, il Trieste Film Festival porta la retrospettiva 1945, la guerra è finita, traumi, rovine, ricostruzione. Due giornate di proiezioni, oggi in programma 5 pellicole, a cominciare da Educated People di Humphrey Jennings in versione originale alle 16. A seguire Germania anno zero di Rossellini, copia proveniente dalla Cineteca Nazionale, anch'essa in versione originale. A Pordenone prosegue Dedica, protagonista lo scrittore Kader Abdollah. Alle 20.45 all'ex convento di San Francesco sarà presentata la nuova edizione del suo romanzo Il Messaggero, vita di Muhammad il profeta, con la partecipazione dell'autore. A Gorizia nel pomeriggio il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, alle 16 parteciperà in via del seminario all'inaugurazione della rinnovata sede dell'Archivio Storico diocesano. Alle 18 Mendonça sarà al centro Bratuj per l'incontro Teoria della frontiera, durante il quale dialogherà con gli studenti della città che presenteranno alcune riflessioni partendo dai suoi testi. Il cardinale è anche un apprezzato poeta e varie sue opere sono tradotte in italiano. Stasera a Trieste una serata solidale per sostenere i progetti di Medici con l'Africa Kuam in Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri al mondo. L'oratorio della parrocchia Madonna del Mare in via Don Sturzo ospiterà alle 19.30 Giovanni Putoto, responsabile della programmazione della ricerca operativa di Kuam. Noi abbiamo parlato dell'attività di Medici con l'Africa e di questo progetto in particolare con Nada Murkovic, referente regionale della ONG. Una scuola nel nord della Repubblica Centrafricana che formerà ogni anno nuove ostetriche fornendo loro le competenze necessarie per assistere mamme e bambini. È il nuovo progetto del QAM Medici con l'Africa, organizzazione con sede a Padova e un forte gruppo di appoggio in Friuli Venezia Giulia che da 1950 promuove la salute in Africa con l'obiettivo di affiancare il personale locale. Il QAM, presente in 9 paesi dell'Africa subsahariana, ha iniziato a operare in Repubblica Centrafricana nel 2018 e ha ricevuto anche impulso da Papa Francesco. In Repubblica Centrafricana noi abbiamo cominciato a lavorare, che è un paese poverissimo, proprio destrutturato fra l'altro. Abbiamo cominciato a lavorare in seguito alla richiesta di Papa Francesco, che aveva aperto la porta santa del Giubileo della Misericordia, e ci ha chiamati insieme al Bambin Gesù di Roma a operare perché non c'era l'ospedale pediatrico. L'organizzazione ha dunque impostato la pediatria nell'ospedale della capitale Bangui e poi, con molte difficoltà, visti gli scarsi collegamenti e la povertà estrema, ha cominciato a operare nella regione del nord del paese, all'ospedale di Bossangoa, ridotto in condizioni molto precarie, dove ci sono 2 giovani medici. Proprio dalla loro esperienza sul campo è nata l'idea di formare nuove ostetriche a Bossangoa, come già il QAM fa in altri stati africani. La mancanza di ostetriche è infatti una delle cause principali di mortalità materna e infantile. In Repubblica Centrafricana il tasso di mortalità tra i neonati è di 32 morti ogni 1000 nati vivi e di 835 madri su 100.000 nuove nascite. Il progetto prevede quindi la costruzione di una scuola per ostetriche. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo agli spettacoli alla Rossetti di Trieste, va in scena da oggi a domenica Anna Karenina, un grande romanzo, una grande figura femminile, una storia che comincia e finisce in una stazione e che qui il regista Luca De Fusco ha deciso di non restituire nella sua totalità, ma concentrandosi su tre coppie, tre declinazioni diverse di amore, tre metafore di destini differenti. Il ruolo di Anna è affidato a una Anna Galatea Ranzi, nel cast anche Paolo Serra, Giacinto Palmarini e Stefano Santospago. Domani pomeriggio in Sala Bartoli l'incontro con gli attori. Al Teatro Bobbio per la stagione della Contrada va in scena da stasera domenica Forbice e Follia, una produzione Artisti Associati che sarà a Spilimbergo, Sedegliano, Gradisca e Zoppola nei prossimi giorni. Tra i protagonisti ci sono alcuni nomi di spicco del teatro comico e del cabaret come Nino Formicola, Max Pisu e Giancarlo Ratti. È una commedia gialla, un'anziana signora viene uccisa con una forbice da parrucchiere e nelle indagini il pubblico diventa protagonista determinando il finale. La parte interattiva è naturalmente imprevedibile e anche noi, conferma il parrucchiere Max Pisu, ci divertiamo parecchio. Ascoltiamolo. Ricordiamo che il pubblico che decide, cioè non deve indovinare, ma decide proprio chi deve essere condannato. Che poi vengono fuori di quelle cose che perché il pubblico non stanno nel cielo né in terra. E quindi ti rendi conto che molte volte uno vede delle cose che non esistono. Quindi io spero di non aver mai bisogno di un testimone se nel caso devo essere arrestato, perché comunque è dura uscirne. Ora lo sport, il basket, nel recupero della due maschile la Gesteco Cividale è stata battuta in casa da Verona 83-74, una sconfitta che arriva pochi giorni dopo il KO nella finale di Coppa Italia a Bologna. Ma per coach Pilastrini è solo una battuta d'arresto che non cambia nulla. Sentiamo cosa dice. Una stagione così impegnativa, con due squadre così forti, dopo il sovraimpegno che siamo stati felicissimi di fare della Coppa Italia, che però ci ha sicuramente fatto spendere tanto, adesso paghiamo contro squadre, diciamo siamo a 6 giorni dalla fine, siamo ancora avanti a Verona in classifica, non siamo riusciti a vincere nessuna delle due partite, però dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo e anche pronti a superare un momento di difficoltà che adesso è palese che ci sarà. Ci sentiamo molto depressi, diciamo, in realtà non c'è da essere depressi, c'è da tenere la testa alta. Pallanuoto, sconfitta indolore per Trieste nel massimo campionato femminile. Le Orchette hanno ceduto in casa all'Orizzonte Catania, 12-9 il risultato per le siciliane che sono passate al comando della graduatoria e si candidano a vincere di nuovo lo scudetto. Le alabardate torneranno di nuovo in acqua il 29 marzo ad Ancona per la penultima giornata della stagione regolare, un turno sulla carta agevole. Le marchigiane chiudono infatti la classifica con soli 3 punti, mentre Trieste quota 27 e quinta. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumine ed Eugenio Giuffrida, collaborato in redazione Cristina Polselli. 12:53 in punto, prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.